non è capace. Solo chi conosce la verità sperimenterà questa grande libertà. Fermiamoci, perché noi facciamo le 4 di notte.